L'efficienza della pubblica amministrazione è il fulcro indispensabile per rilanciare lo sviluppo. Senza una pubblica amministrazione efficiente non si potranno fornire servizi di qualità alle imprese e ai cittadini, e soprattutto a quelli più deboli. Tempi certi della giustizia, sostegno concreto appunto ai redditi dei più deboli, un welfare moderno, una scuola e università valutate e premiate in base al merito. L'assenteismo è l'emblema dell'inefficienza e del cattivo funzionamento della pubblica amministrazione, il fenomeno più evidente e clamoroso. Evasione fiscale e assenteismo sono due grandi mali, diversi, ma ahimè spesso complementari. Compresi i giorni di ferie, l'assenteismo nel pubblico impiego è infatti del 30% superiore rispetto alle grandi imprese industriali. Azzerare le assenze diverse dalle ferie porterebbe ad un risparmio di quasi un punto di PIL, 14,1 miliardi, 8,3 negli enti centrali e praticamente il 6% in quelli locali. Portare la quota di assenze totali, comprese le ferie, al livello di quelle nel settore privato, dove in ogni caso c'è l'assenteismo, darebbero un risparmio di oltre 11 miliardi di euro.